Libia perché trema questa terra. In Libia sta per cominciare la guerra. Non si può andare avanti, non possono venire in tanti. Avanzano verso Lampedusa, proviamo a cercare una scusa. L'Unione Europea che fa? Non ci aiuta come l'Ilva non va. Sulle nostre rive tanti scafi. Ma che cazzo dai Gheddafi? Stiamo cercando di uscire da una crisi e ci rubano il posto nuovi viti. Dovremmo scartarli a priori e al barile ci fotteranno i milioni. Con Di Pietro dell'Italia dei valori ne avremmo già visti tutti i colori. E se si tratta di comunicare, beh fratello non mi posso fidare. Il nano vuole mettere il nucleare, ma il Giappone non lo fa spaventare. Salate le bollette da pagare, molte persone si potranno ammalare. Ah, attenzione! Ha attentato, qua qualcuno è già scappato. C'è il rap exclusive to the world 2011, aiuto. La Francia vuole già bombardare, da parte nostra l'aiuto militare. Jet pronti a sorvolare e la Libia pronta a bruciare. Ogni arsenale è stato disintegrato, povero il mio caro emirato. Può darsi che sia morto suo figlio, chi se ne frega, forse è meglio. Il Mediterraneo è campo di battaglia, sulla soglia dell'Italia, dove si affaccia l'Ilva e Leni. Gheddafi mira bene i fani neri, è la volta buona per un cambiamento, perché le cose qui vanno a rilento. Vidumar quanto è spento, non spira più tanto sentimento. Mentre in Libia sono pronti ad ammazzare, in Giappone si cerca di rianimare, e molti rimangono indifferenti, con popcorn tra i loro denti. Tornando alla crisi nucleare, Berlusconi ci dovrebbe ripensare. Non oso nemmeno immaginare che cosa ci potremmo aspettare. È peggio di una bomba nucleare che ci potrà irradiare e allo stesso tempo ammazzare. Non è bello far finta di niente, non credo che scema la gente. Pensa al pannello solare, questa è un'alternativa da valutare. Col nucleare non si può scherzare. C'è il rap exclusive to the world 2011, aiuto.